il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. L'inizio di novembre è sempre stato un periodo importante per la vita contadina, perché in questi giorni a San Martino avveniva il rinnovo dei contratti agrari, cosa che avviene anche oggi. Era un periodo di festa per chi otteneva il rinnovo dai paroni, ma era un dramma per chi non lo otteneva e da un giorno all'altro poteva trovarsi a dover lasciare la casa e andarsene con tutte le sue cose, la famiglia e senza un lavoro. Di questo però abbiamo già parlato in passato nella nostra trasmissione. Oggi invece vogliamo trattare un argomento diverso ma che ha comunque un legame con il giorno di San Martino, ovvero l'oca. Perché l'oca? Ma la domanda è perché in questo periodo, e solo in questo, molti ristoranti del Veneto propongono menù a base di questo stupendo e orgoglioso animale da corte. Lo chiediamo a chi di oca se ne intende, perché da un punto di vista gastronomico se ne deve occupare, ed è Serafino Baù della Trattoria Enoteca San Daniele di Torreglia ai piedi dei Colli Euganei. Benvenuto Serafino. Buongiorno a te e a tutti voi. Ecco, abbiamo scelto di parlare con un cuoco, non con un allevatore oggi, perché volevamo anche un po' sentire la parte della tradizione culinaria. Ecco, perché voi e altri ristoranti del Veneto in questo periodo proponete l'oca? Da cosa nasce? Perché a novembre? Perché a novembre, appunto, come dicevi tu, è la tradizionalmente, soprattutto nel Veneto, la tradizione di consumare questo animale, ma non solo di consumare, ma anche di conservare, perché questo qui, come dicevi tu appunto, che i contadini ce ne andavano, cosa succedeva? Loro dovevano avere una scorta per portarsi tutto l'inverno nei periodi di fame, avevano questo piatto particolare, veniva messa via cruda, sottostrutto, in maniera che quando si doveva usare si tirava fuori, si manteneva, si macerava in una certa maniera che però rimaneva praticamente fresca e poi l'alla si cucinava. Quindi, se ho capito bene, i contadini potevano mettere in questo periodo tirare il collo, diciamo, alle oche, prepararli, metterle via per potersele anche portare o consumare durante l'inverno o comunque portarsele via se dovevano cambiare fattoria. Esattamente, c'era la riserva perché non c'erano i frigoriferi all'epoca, quindi era la riserva che si poteva appunto portare tutto l'anno fino in primavera inoltrata. E perché proprio l'oca e non so, galline, capponi? Perché l'oca è nell'economia agricola della fattoria. Era un animale che non consumava più di tanto perché mangiava l'erba, si metteva a pascolare, mangiava l'erba dei carrucci, delle stradine eccetera, quindi i bambini lo facevano pascolare e così non andava a consumare niente della fattoria, quindi il proprietario, non so, allora la famiglia faceva 10 oche, 3 andavano al proprietario e 7 rimanevano in uso al bracciante. Mentre altri animali da cortile erano di proprietà del padrone e quindi non potevano portarseli via, se capisco. Esattamente, ma tu pensa per esempio, non so, che il piccione, una volta si capiva la famiglia se era importante, se aveva la piccionaia, la torre, quindi una proprietà più torri aveva, più piccioni aveva, più importante era. Era molto... Diciamo che era molto legato anche alla forma. Quindi la cosiddetta oca in onto di fatto nasce da questo mettere a conservare, cioè alcuni alimenti andavano conservati, non so, sotto sale oppure messi a seccare, penso il baccalà, mentre l'oca invece andava sottostrutto. Esattamente. Cruda, però in alcune zone si faceva anche cotta, si metteva via cotta. Sì, però allora era un'altra motivazione, nel senso... Allora, qui siamo in campagna, soprattutto nella bassa padovana, campagna proprio. In collina, nel Trevigiano, invece, si usava si cuoceva subito, molto speziata, si metteva dentro i contenitori con tutto il suo olio, diciamo, ed era un piatto pronto. Quindi era, diciamo che era il precursore dei piatti pronti che usiamo adesso. Perché là, allora, cosa succedeva? Prendevano... Sfarinavano, rompevano con le mani questa polpa già cotta sopra la polenta calda, col suo sugo, eccetera, avevano già un piatto pronto. Ma c'è ancora chi la fa l'oca in onto come si faceva una volta, oppure oggi è persa questa tradizione? Allora, ci sono tanti ristoranti che la fanno, anche alcuni hanno ancora, soprattutto nella bassa padovana, se la fanno in casa. Noi però, usando un presidio slow food, perché l'oca in onto è un presidio slow food, noi questa qua ce la facciamo preparare dall'azienda Il Dosso di Michele Litamè, che è lui che ce la prepara e la mette via, la conserva, perché è un allevatore di oca, e anche il presidio slow food. Presidio slow food c'è anche a Treviso, nell'azienda Mondragon, dove loro in punto fanno questa di collina, praticamente, che viene cotta e messa via già cotta. Bene, abbiamo imparato qualcosa di nuovo, ma ci torniamo sopra fra poco, per ora ci fermiamo per qualche minuto. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. My shoulders, I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder, but the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on. I've seen times that were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding strong. Even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on. Holding strong, even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong. Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it. Holding on, holding on, holding on. Torniamo Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di una cosa tipica legata al San Martino ed è la tradizione dell'oca, in particolar modo dell'oca in onto. Lo stiamo facendo con Serafino Baù della trattoria Enoteca San Daniele di Torreglia. Abbiamo visto le motivazioni per cui è questo il periodo in cui anche molti ristoratori del Veneto propongono l'oca nei loro menù, proprio come piatto tipico. Passiamo adesso a dare qualche consiglio, come si cucina l'oca, per esempio come lo proponete anche voi nel vostro ristorante e qualche suggerimento per chi volesse farla in casa in questo periodo. Allora, l'oca è come il maiale, non si butta via niente. Perché dico questo? Perché noi per esempio nei nostri piatti ci mettiamo tutta l'oca, dal collo, non mettiamo logicamente le zampe, che tantissimi le mangiano perché sono buone, però diciamo che il corpo e il collo lo usiamo tutto, perché noi quando la puliamo, io la cuocio arrosto normalmente, quindi sì, a busto intero, il collo, la testa la buttiamo via, il collo lo tengo perché levo la pelle, con quella ci faccio una specie di ripieno con le frattaglie, qui la faccio farcita e la vado a cuocere con i colli. Perché cosa faccio? Con i colli, con l'osso del collo e lo spolpo e faccio gli sfilacci. Gli sfilacci d'oca. Allora, li cuocio in pentola con del pomodoro e poi la fettina del collo farcita la taglio a fettina e la metto sulla polenta calda. E mentre anche l'altra, anche gli sfilacci di collo col pomodoro vanno messi, li abbiniamo con il secondo, che è l'oca arrosta. E come contorno cosa si abbina ad un'oca di stagione? Beh, come contorno ci vogliono le patate che sono mature adesso in questo momento, sono buone, da fatte a rosto, logicamente usando il toccio del rosto, come che si chiama in dialetto, capito? Quindi sì, assolutamente. E mentre brodo d'oca non è una sua caratteristica. Allora, il brodo arrosta. D'oca lo facciamo nel momento che andiamo a fare il risotto con i fegatini. Però allora là dobbiamo fare un'altra, allora non si fa più col busto intero arrosto, perché noi l'oca la cuociamo arrosta, non la facciamo lessa. Perfetto. Allora cosa succede? Arrosta, noi la saliamo, ci mettiamo un po' di olio, un po' di vino bianco, poco, aggiungiamo un po' di acqua per la cottura, lo mettiamo in forno per 3 ore e mezzo, 4 ore. Quindi è una cottura lunga. E per concludere le uova dell'oca, perché poi non in questo periodo, perché le oche povere sono finite nella padella, però sappiamo che sono anche grandi e nella tradizione contadina erano appunto, come dicevamo prima, i contadini che avevano le oche, queste uova grandi erano una fortuna, insomma una benedizione, immagino. Le uova sono sempre state una benedizione per tutti, perché lei pensi, adesso andiamo in un altro cosa, però la gallina padovana è arrivata qui a Padova assieme agli studenti che venivano qui dall'est Europa, l'hanno portata qui perché aveva una prerogativa, faceva un uovo al giorno, quindi nel 500 avere un uovo al giorno era avere, e la stessa cosa è l'uovo di oca, perché è molto nutriente, molto saporito. È un po' più difficile da digerire dell'uovo di gallina, però è eccezionale anche quello. Benissimo, direi che abbiamo detto un po' tutto, anche se si potrebbe parlare molto di questi piatti tipici della tradizione, quindi se qualcuno è interessato, questo è il periodo giusto per provare anche dei sapori di una volta, dall'oca in onto, l'oca arrosto, comunque una pietanza che era tipica e importante nel passato della nostra di chi viveva nel Padovano e nel Veneto rurale. Grazie a Serafino Baù della trattoria Enoteca San Daniele. Grazie a voi. E restiamo in tema alimentare, agroalimentare, con alcune brevi notizie con cui concludiamo la trasmissione. Una fiera che si svolge a Vicenza la prossima settimana, questa settimana, da sabato 12 a martedì 15 novembre, che si chiama Cosmo Food, è un grande evento del cibo e della ristorazione giunto alla quarta edizione, ma già un appuntamento rilevante nel settore. Parteciperanno circa 450 aziende dall'Italia e dal mondo, ma ad attirare appassionati operatori sono anche i circa 100 tra eventi, corsi, degustazioni e seminari. Novità di quest'anno lo spazio Arena, nel quale si esibiranno in uno show cooking gratuito quattro chef: Lorenzo Cogo, Giuliano Baldessari, Chiara Maci e Ernest Knamm. Un padiglione sarà interamente dedicato ai prodotti alimentari con vino, birra artigianale, prodotti di qualità dall'Italia e dal mondo, e vi sarà un settore dedicato al mondo delle intolleranze alimentari, al gluten free e al bio e vegano. La fiera è aperta, ripetiamo, da sabato 12 a martedì 15 novembre alla Fiera di Vicenza, da sabato a lunedì dalle 9 alle 22 e il martedì fino alle ore 19, ingresso Euro 7. Rimanendo nel mondo delle fiere, a Verona stavolta il mondo equestre in piena vitalità torna protagonista a Verona Fiera con la 118esima edizione di Fiera Cavalli, in programma dal 10 al 13 novembre prossimi, quindi anche questa settimana. Sono attesi circa 3.000 cavalli di 60 razze diverse, oltre 760 espositori da 24 nazioni, più di 130.000 metri quadrati tra padiglioni, campi di gara e gare esterne, dove si svolgeranno 200 appuntamenti di gare sportive, show e convegni. Sono questi i numeri della più importante manifestazione internazionale di settore, riferimento per un comparto che in Italia conta, solo in Italia, 400.000 cavalli censiti, 310.000 cavalieri, 5.000 aziende e 19.000 allevatori. Appuntamento quindi a Verona Fiere da giovedì 10 per gli appassionati del settore. E per concludere, nei primi giorni di ottobre il Consiglio d'Europa ha ratificato l'accordo di Parigi del dicembre 2015, che stabilisce il quadro di azione globale sui cambiamenti climatici. Gli Stati membri ora procederanno alla ratifica. L'accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la ratifica da parte di almeno 55 paesi, che nel loro insieme rappresentino il 55% delle emissioni globali di gas a effetto serra. Sinora hanno ratificato l'accordo 63 paesi, che rappresentano il 52,11% delle emissioni globali. Ricordiamo che il principale obiettivo dell'accordo è, a lungo termine, mantenere l'aumento della temperatura media globale del pianeta al di sotto di 2 gradi in più rispetto ai livelli pre-industriali e possibilmente proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.